Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito? Gesù rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti, e diceva loro: il figlio dell'uomo è signore del sabato. Abbiamo nuovamente i farisei, gli scribi, che hanno sempre da criticare. E quindi criticano i discepoli, perché, discepoli di Gesù, perché coglievano e mangiavano le spighe il giorno di sabato, quando la legge vietava qualsiasi lavoro, e questo era considerato un lavoro, nel giorno del riposo, nel giorno del sabato. E Gesù ci dice qualcosa di fondamentale, ci dice come noi dobbiamo cercare di interpretare bene tutti i comandamenti del Signore, quindi anche il comandamento del rispetto del riposo del sabato. Allora vorrei parlarvi oggi il sabato nostro, che è la domenica in realtà, perché sappiamo che la domenica è il giorno del Signore, perché Gesù è risorto di domenica, per cui per i cristiani non c'è più il sabato da rispettare, ma la domenica da rispettare. E vediamo che purtroppo nella prassi di molti cristiani cattolici la domenica è diventata un giorno come un altro, o peggio ancora, un giorno nel quale noi coinvolgiamo tutte le attività, tutte le cose che non riusciamo a fare durante la settimana, le facciamo di domenica. E particolarmente proprio cose che sono veri e propri lavori. Quante persone approfittano la domenica per fare tutte le lavatrici, per fare tutte le pulizie, per sistemare la casa, per fare magari un secondo lavoro per poter guadagnare, arrotondare un po' il proprio stipendio. Ecco, non si ha più il senso del giorno del Signore. Il giorno del Signore è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché se noi consacriamo un giorno al Signore, noi ritroviamo la nostra vera dimensione umana di figli di Dio, di creature. Perché non rispettare il giorno del Signore significa non riconoscere che dipendiamo da Dio e che la nostra gioia è nel Signore, il nostro riposo è nel Signore. Noi cerchiamo riposo in tante altre cose, ma invece il vero riposo è nel Signore. E io dico sempre che il peccato unico, vero, dell'uomo è quello di non riconoscere questa presenza del Signore nella propria vita e di non dare spazio al contatto con il Signore. Da lì nascono poi tutti i peccati. Io non mi meraviglio che se una persona che non ha nessuna vita spirituale, non ha nessun contatto con Dio, poi questa persona commette tanti stupidaggini, tanti errori, anche gravi e madornali, ma tutti noi li faremmo. Quindi la premura, l'attenzione che si deve al giorno del Signore deve essere massima, perché da lì nasce tutto il rinnovamento della persona. Se impariamo a riposarci nel Signore, impariamo che veramente lo scopo della nostra vita è vivere in Lui e vivere di Lui, vivere con Lui e trasmettere agli altri questa vita di serenità, di amore e di pace che si ha e che si sperimenta stando a contatto con Lui. Quindi cerchiamo di chiederci: ma com'è la mia vita di preghiera? Com'è il giorno del Signore? Come lo trascorro io di solito il giorno del Signore? Lo trascorro, diciamo, dando tempo al Signore o dando tempo sempre alle solite cose, alle cose materiali, oppure mi valorizzo il giorno del Signore. E se io so riposarmi nel Signore, so veramente riposarmi nelle relazioni e costruire relazioni sane. Quindi facciamo il proposito di non trascurare il giorno del Signore, ma di condurlo, di svolgerlo come Lui vuole. E questo è diventare padroni del sabato, cioè ricavare da questo giorno il massimo per la nostra vita. Buona giornata.